come... c'è una risposta univoca. L'unica risposta vera e reale è il fatto che la capacità vescicale è inferiore, quindi il riempimento avviene più rapidamente. E poi la donna va anche in bagno non soltanto perché ha bisogno di andare urgentemente, ma no, insomma, va un attimo a darsi una sistemata, insomma, siamo molto più curate, questo è da dire. Sì, va bene. Questo è vero. Grazie mille, dottore. Prego, siamo soddisfatti. Spero di essere stato utile. Assolutamente sì. Arrivederci, grazie a voi. Se cercate risposte alle vostre domande, scriveteci a elementare@radio24.it e noi risponderemo a tutte. Per esempio, come noto, il giovane Superman dovette imparare ad usare i suoi ultrapoteri. È vero che da piccolo un giorno durante l'allattamento riuscì ad aspirare anche la cistifellea della madre? Elementare, Watson.